Grazie Noemi. Anch'io ho una buona notizia. Gesù è vivo. Fantastico. E ho già qualcosa da darci. Io ho un'acqua, ho una bottiglia di acqua perché ho sete. E oggi ti pongo una domanda e adesso di' alla persona vicina a te. Di cosa hai sete? Di cosa hai sete? Sapete, quando fa molto caldo e hai bisogno di bere, fai di tutto per trovare un po' di acqua, soprattutto quando sei fuori casa e quindi l'acqua manca. Ora vi racconto una storia che è successa nel nostro viaggio di nozze. Enza già ride. Non ridere troppo, perché non riguarda te, riguarda me. E voi non ridete assai, eh? Eravamo a Barcellona. Ora vedo Aki, che quindi conosci perfettamente ovviamente lo spagnolo, però noi italiani, non so se c'è qualcun altro che conosce lo spagnolo, ok, Luis, ti vedo. Noi italiani pensiamo che mettendo qualche S e sapendo qualche parolina possiamo hablare, possiamo parlare. Faceva troppo caldo ed eravamo a Barcellona e non sapevamo da dove prendere acqua e c'era un bar. Mia moglie lo conosce bene, lo spagnolo, l'ha studiato molto bene. Io un po', però orgoglioso, in viaggio di nozze, io sono l'uomo, non ti preoccupare, vado io a chiedere l'acqua. Tanto cosa mi chiederà il barista? Cosa mi potrà chiedere? Non potrà chiedere nulla, al massimo mi dirà quanto costa una bottiglia d'acqua. Quindi entro nel bar insieme a Enza, però dico tu portami. Una bottiglia di acqua, una bottiglia di acqua. Il barista si volta verso di me, la lleváis. Che cosa? La lleváis significa la portate via. E lì la mia faccia rimane scioccata e i miei occhi si aprono e guardo mia moglie. In quel momento ho capito cosa significa nella Bibbia aiuto adatto all'uomo. Mi ha salvato da una brutta figura. Lei inizia a parlare spagnolo, paga lei, ce ne usciamo con l'acqua, ok, tutto a posto. Ma l'orgoglio degli italiani, soprattutto dei baresi, è enorme. Siamo a Madrid. Non ci sono, cioè in realtà ci sono tanti modi per poter ottenere l'acqua, ci sono anche dei chioschetti. E io mi rivolgo a chi lavora, ha preso un chioschetto, non ha tavolini, non ha sedie, non mi può dire la lleváis, cioè ve ne andate via o vi sedete. Quindi sto tranquillo, questa volta ce la farò e dico a mia moglie, tu, a distanza di sicurezza, è il mio momento. Una bottiglia di acqua e aggiungo fria, cioè fredda, perché si vende acqua a temperatura ambiente e acqua fredda. Si volta verso di me, negoziante, via sopra via. Lo guardo di nuovo con gli occhi sbarrati, però questa volta non mi giro verso Enza. Lo guardo deciso e dico, grande! Cioè lui mi aveva chiesto fredda o super fredda, ma in quel momento mi sembrava Speedy Gonzales. Tanto che andava velocemente, non l'avevo compreso. Ma cosa vuol significare questa storia? Che dovunque noi siamo, anche se parliamo una lingua diversa, anche se viviamo una cultura diversa, quando abbiamo bisogno di bere non ci mancherà mai l'acqua. E un bicchiere d'acqua non si nega mai a nessuno. Gesù un giorno ha chiesto dell'acqua a una donna di un'etnia diversa, con una cultura un po' differente, ma chiede a lei dell'acqua perché in quel momento ha sete. Sapete, nella Bibbia per due volte Gesù dice ho sete, per due volte viene fuori il bisogno di bere acqua e per due volte lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, e il Vangelo di Giovanni è ricco di simbolismi perché ogni qualvolta lui parla di qualcosa che in modo naturale noi possiamo comprendere, c'è congiunto, incastrato, qualcosa di spirituale che Dio ci vuole dare. E quando pensiamo all'acqua che serve a soddisfare un nostro bisogno fisico, Gesù si presenta come l'acqua della vita. In Giovanni Gesù è l'acqua viva, l'acqua della vita. E nell'Apocalisse di Giovanni Gesù dice, chiunque ha sete venga. Chi vuole prende in dono l'acqua della vita. Gesù è l'acqua della vita, chiede a una donna, e lo vedremo a breve, dell'acqua. Lo chiede per due volte. La prima volta alla croce. Gesù dice, ho sete. E Giovanni però scrive, disse questo affinché le scritture fossero adempiute e tutto fosse compiuto. Di cosa Gesù aveva sete? Forse Giovanni si sta riferendo a un semplice bisogno fisico? Non solo. Gesù ha sete di vedere la volontà di Dio compiersi nella nostra vita. E dopo che chiede dell'acqua, prima di morire dice, ecco, tutto è compiuto. Ecco, la volontà di Dio è fatta. E quando Gesù si reca dalla donna, leggiamo la prima parte, abbiamo diviso in due o tre parti questo brano che è abbastanza lungo, è scritto che Gesù deve recarsi dalla Galilea, dalla Giudea in Samaria. Giovanni 4, i versi dal 3 al 15. Gesù lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora egli doveva passare per la Samaria. Arrivò dunque in una città della Samaria, detta Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Or qui c'era il pozzo di Giacobbe e Gesù, affaticato dal cammino, sedeva così presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una donna di Samaria venne per attingere l'acqua e Gesù le disse, dammi da bere, perché i suoi discepoli erano andati in città a comprare del cibo. Ma la donna samaritana gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Gesù rispose e le disse, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse, Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso, i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e le disse, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più ad attingerne. Gesù è l'acqua della vita. È bellissimo il Vangelo di Giovanni, come sono belli tutti i Vangeli, perché Giovanni vede sotto una certa prospettiva chi è Gesù. Sapete, nel Vangelo di Matteo c'è, e il capitolo 1 parte, da una genealogia che conduce Gesù alla casa di Davide, al re Davide. Cioè, Matteo sta dicendo, Gesù è re dei Giudei e vedo Gesù sotto questa prospettiva. In Marco non esiste genealogia, perché Marco dice Gesù è nato servo e fino alla morte è servo. Luca fa discendere Gesù da Adamo e dice Gesù è 100% uomo. Giovanni, e lo vedremo poi alla fine di questo brano, dice nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, Gesù è 100% Dio. E quando Gesù parla a quella donna e chiede dell'acqua, nello stesso tempo si propone come fonte di salvezza per la vita di questa samaritana. Abbiamo detto che Gesù con i discepoli dovevano andare dalla Giudea in Galilea e passare per la Samaria che si trova al centro. Io vorrei far vedere una foto a voi che illustra la situazione. Loro erano in Giudea, devono passare, sta un po' scritto più grande, in Samaria, per arrivare in Galilea. Solitamente i giudei non passavano in Samaria, ma passavano al confine, dove c'è il fiume Giordano, che purtroppo forse non riuscite a leggere, però è alla fine della parte rosa a destra. Perché? Perché c'era un bel problema, l'ha detto il pastore due settimane fa, tra giudei e samaritani. non si volevano per nulla bene, si odiavano. E se io devo attraversare tutta questa terra, devo fare 175 chilometri, preferisco allungare di qualche chilometro per non vedere in faccia un samaritano. Perché durante la conquista del regno Assiro c'era stata la deportazione di alcuni samaritani, cioè in altre parole, alcuni samaritani erano stati portati via dalla loro terra, portati in altre nazioni. Persone sotto gli Assiri di altre nazioni erano stati portati in Samaria. E c'era stata un'unione tra i samaritani e queste persone di altre nazioni, uno scambio di cultura, dei matrimoni misti. Era entrata una cultura, culture diverse, lingue diverse, fedi diverse, dei diversi. Tant'è che i samaritani adoravano 5 dei oltre il Dio degli ebrei. 5 più 1. E i giudei non potevano sopportare questa cosa, perché loro erano stati fedeli fino alla fine, non si erano contaminati, non si erano compromessi. Voi siete impuri, samaritani. Noi con voi non vogliamo avere relazione. Quando poi è stato costruito il Tempio di Gerusalemme, i samaritani hanno detto, vi vogliamo dare una mano? I giudei hanno detto, no. Così i samaritani si sono costruiti 5 templi per i loro 5 dei, come è scritto in Due Re. E Gesù vuole passare, è scritto deve, perché Gesù deve, ha sete di fare la volontà di Dio. E il Padre gli sta dicendo, passa, passa per la Samaria. Deve passare da lì per portare acqua viva. Gesù è troppo forte perché va senza paura a sovvertire delle regole. Va a parlare a una persona impura. Non solo una persona impura, una donna. E la preghiera del giudeo era, sii benedetto Signore, perché non mi hai fatto né schiavo, né non ebreo, quindi pagano come i samaritani, né donna. Né donna, era la preghiera del giudeo uomo. La donna non poteva imparare da un uomo ciò che Dio aveva per l'umanità. La donna era considerata inferiore all'uomo. Una donna samaritana, Gesù, al pozzo di Sicar, si ferma al pozzo di Sicar, che aveva costruito Giacobbe, per aspettare quella donna. Una donna samaritana. Il top del peggio, non poteva succedere. Gesù si ferma a parlare con lei, ma la donna samaritana rappresenta tutti noi, che ci sentiamo gli ultimi, che ci sentiamo rinnegati dagli altri, che ci sentiamo sconfitti, che ci sentiamo abbattuti. Gesù a mezzogiorno, è scritto all'ora sesta, cioè mezzogiorno, è lì ad aspettare qualcuno. A mezzogiorno, al pozzo, non andava nessuno. Perché faceva troppo caldo, il sole batteva al massimo livello, le persone stavano mangiando, quindi o si andava la mattina o si andava il pomeriggio, e al pozzo c'erano delle piazze, c'era una piazza, quindi si creavano relazioni e le persone andavano per scambiarsi relazioni, e Gesù era lì per avere relazione, però a mezzogiorno, quando nessuno c'è, e quando nessuno c'è passa la donna samaritana che non si voleva far vedere da nessuno. Sicuramente provava vergogna, perché leggeremo dopo, viveva anche una relazione che sicuramente era oggetto di giudizio da parte delle persone intorno a lei. Quindi lei cercava di non farsi vedere da nessuno, e a mezzogiorno, ogni mezzogiorno, sotto il sole, sfidava il sole per andare a prendere un po' di acqua con questo secchio. E io immagino la donna che faceva almeno una volta, se non anche due, forse la notte, avanti e dietro, per prendere acqua per il bisogno che lei aveva di bere dell'acqua per soddisfare il suo bisogno fisico. E Gesù è lì. Quella donna faceva avanti e dietro per la sua famiglia, per bere dell'acqua, per poter andare avanti, quando nessuno la doveva vedere. Gesù era lì per lei. Gesù è qui per te. Gesù è qui per noi. Gesù vuole avere una relazione personale e intima con noi. Gesù vuole parlare con noi. Gesù non ha un secchio, la donna ha un secchio. E Gesù dice, quando vede la donna, donna, mi dai un po' di acqua o sete? E la donna rimane interdetta. A me? a me, una samaritana donna, tu giudeo, mi chiedi dell'acqua. Ma che sta succedendo qui? Io ti devo dare la mia acqua con questo secchio, io sono impura, tutto quello che io tocco è impuro, tu non hai nemmeno un secchio, ma chi sei tu? Chiedemi di quest'acqua. Gesù le dice: l'acqua, se tu sapessi chi sono io ti darei un'acqua che ti dà vita, un'acqua che tu bevi e dopodiché non hai più sete. Questa donna poi gli va oltre, dice: spiegami meglio, perché io conosco il grande Giacobbe, tu chi sei? Io ti posso dare quell'acqua che zampilla, io ti posso dare quell'acqua che gorgoglia, io ti posso dare quell'acqua che tu bevi e non hai più bisogno di fare avanti e dietro con il secchio. Cosa rappresenta il secchio? Le nostre opere, il nostro voler raggiungere Dio con i nostri mezzi. E questa donna ogni giorno aveva un bisogno di bere, e faceva avanti e dietro. Ma non c'era solo un bisogno fisico da soddisfare. In questa donna c'è un bisogno spirituale, Gesù lo sa. E lui sta parlando alla sua vita e sta dicendo: hai bisogno che il tuo cuore possa guarire. Hai bisogno di essere libera. Hai bisogno di non vivere più la vergogna. Sapete, noi siamo come quella donna. Tante volte ci capita di vivere la nostra vita andando a chiedere a Dio dell'acqua con del secchio. E Gesù oggi dice: non c'è più bisogno di fare pellegrinaggi, non c'è più bisogno di andare lontano per cercare me, non c'è più bisogno che tu ti muovi per venire a me, non c'è più bisogno dei tuoi sforzi, non c'è più bisogno delle tue opere, non c'è più bisogno che tu voglia farti piacere con il tuo servizio, perché solo per fede puoi piacere a Dio. E questa donna comprende che quest'uomo, Gesù, ha qualcosa di straordinario e dice: io voglio quest'acqua che dà vita eterna. E qualcosa in lei si sta muovendo e si chiama fede. È il pozzo che adesso abbiamo davanti a noi, ci parla di Gesù e noi siamo lì a poter attingere dell'acqua viva per fede. Gesù ha sete della nostra fede. Sarà detto domenica: Gesù si vuole meravigliare della nostra fede. E oggi dico, non cambia molto, Gesù ha sete della nostra fede. Gesù vuole vedere la nostra fede muoversi. Gesù è contento quando iniziamo a dire: sì, dammi dell'acqua. Forse sei qui per le prime volte, Gesù ti vuole dare un'acqua che ha il sapore di eternità e che ti dà la vita eterna, perché quando tu la ricevi i tuoi bisogni dentro di te sono completamente soddisfatti. Le persone intorno a te giudicano, ti senti ferito, ti senti schiacciato, nella famiglia, nel lavoro non va tutto bene. Gesù è venuto per darti piena libertà, Gesù è venuto per darti vita abbondante. Però capita che anche se noi veniamo in chiesa tante volte, ci sentiamo aridi, e la domenica dovrebbe essere un tempo in cui, avendo ricevuto questo fiume di acqua viva, questa sorgente di acqua illimitata per noi, che non ci dovrebbe fare più avere sete, veniamo con questo secchio a chiedere: Gesù, riempi il mio secchio, perché la mia vita è arida. È scritto nella Bibbia: la fede viene dall'udire la parola di Dio. Gesù parlava a questa donna e la fede stava muovendosi dentro di lei. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Questo libro non se ne deve mai andare via dal nostro cuore. Viviamo una relazione intima con Gesù. Leggiamo la sua parola, immergiamoci nella sua parola. E quando Gesù viene e ci dà quell'acqua, lo abbiamo cantato, Noemi è stata ispirata da Dio e guidata in questo, perché andiamo a riprendere questo tema: lo Spirito Santo è sempre con noi. È quell'acqua che si muove, è quell'acqua che noi abbiamo bevuto e non dovremmo avere più sete. Però c'è un problema. Tante volte noi veniamo per un bicchiere d'acqua, perché è scritto in Geremia, Dio sta parlando, Il mio popolo ha commesso due cose che non vanno bene. Uno, si è allontanato da me. Due, ha costruito cisterne screpolate, cioè cisterne rotte, cioè pozzi che hanno dei buchi. E quando c'è la mia acqua all'interno, che deve sovrabbondare, che deve immergere, come ha detto il pastore, punto, va fuori e ci riempie completamente. Piano piano ci sono delle perdite. E quell'acqua va via e ci sentiamo vuoti. Io sento che ci sono persone che stanno vivendo un tempo di aridità. Se sei qui per un bicchiere d'acqua o per perché Dio possa riempire oggi il tuo secchio, oggi Gesù lo fa, ma lo Spirito Santo vuole fare ancora molto di più. Vuole immergere la tua vita in modo tale che tu ogni giorno nelle prove, nei momenti difficili, quando tutto va storto, non ti muovi più con le tue idee, con i tuoi modi di fare, con le tue strategie, ma andiamo da Gesù e diciamo: dammi oggi tu quello di cui ho bisogno. E io so che tu mi hai dato quell'acqua affinché io possa vincere ogni prova, possa uscirne ancora più forte e possa parlare di te con la mia testimonianza viva di quello che tu fai nella mia vita. Abbiamo bisogno di vivere questa esperienza e la domenica dovrebbe essere il tempo in cui noi veniamo carichi per dare. Tante volte veniamo per ricevere. Poniamoci in un'ottica diversa, carichi per dare. Perché è il momento in cui ci possiamo dare l'un l'altro tutto ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita. Ma Gesù non si ferma qui. Lui si potrebbe fermare al like della donna samaritana. Dice: sì, mi piaci Gesù, io voglio la tua acqua. Oh, la donna mi ha messo un like, ha alzato la mano, che bel risultato. Vado dagli altri samaritani, non ho tempo da perdere. Gesù non fa questo. Gesù si ferma a parlare con ognuno di noi, perché per lui siamo estremamente preziosi. Non si ferma alla mano. Tante volte noi guardiamo la mano, tante volte noi guardiamo al nostro problema e diciamo: Gesù, vieni, altrimenti vuol dire che questa chiesa non è unta, magari cambio chiesa e mi va meglio. Non contano i risultati per Gesù. La prima cosa è l'amore e le lacrime che Gesù ha versato per la Samaria. Quando è stato accettato e quando non è stato accettato, lui ha versato prima e dopo delle lacrime per quel popolo. E ha amato gli ultimi e ama anche noi allo stesso modo. Il pozzo ci parla di fede, ma ci parla altrettanto di un amore infinito che Gesù ha per noi. A tal punto che Gesù dice alla donna: dov'è tuo marito? Cioè adesso che ci azzecca il marito con l'acqua? Cioè stiamo parlando di acqua e Gesù parla del marito. La prima cosa che dobbiamo comprendere è che Gesù si fa i fatti nostri. Gesù ama farsi i fatti tuoi, che bello. Gesù ti chiede: come stai? Come sta la tua famiglia? Tua moglie, i tuoi figli, tutto bene? Mi parli di loro? Mi parli di te? Mi parli del tuo problema al lavoro? Mi parli di come ti stanno perseguitando le persone intorno a te? Mi parli delle tue frustrazioni? Parlami, parlami. E la donna dice: io non ho marito. E si ferma qui. L'amore di Dio, quel fiume che scorre, pieno d'amore, porta con sé frutto e doni dello Spirito. E Gesù entra a parlare con una parola di rivelazione, con un dono di conoscenza, ma anche vedremo un dono profetico. Dice alla donna: hai detto la verità, tu non hai marito, perché tu hai avuto 5 mariti. La stessa persona con cui stai avendo una relazione non è tuo marito, stai convivendo con lui. In altre parole, però Gesù non si fa i fatti di questa donna per giudicare quello che sta facendo, e questa è la cosa bella. Gesù si fa i fatti nostri perché ci ama e vuole fare grazia nella nostra vita. Gesù non giudica la donna, non dice: come mai per 5 volte il tuo matrimonio è andato storto? Probabilmente ha avuto 5 lutti. Immaginiamo la stessa persona, dice: meglio che non ti sposo. Meglio che conviviamo, magari cambia qualcosa. E sicuramente nella donna c'erano dei pesi, delle angosce, delle frustrazioni, a tal punto da dire: voglio vivere una relazione diversa adesso con un altro uomo. Ma Gesù è lì, pronta ad amarle, a dire: io voglio sposare te. Che che scandalo, arrivano i discepoli nel momento in cui Gesù fa la sua dichiarazione d'amore alla donna. Leggiamo. Il prossimo passo. Gesù le disse, siamo sempre in Giovanni 4, versi 16-27. Gesù le disse, va a chiamare tuo marito e torna qui. La donna rispose e gli disse, io non ho marito. Gesù le disse, hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito. E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. La donna gli disse, io so che sei il Messia, che è chiamato Cristo. Io so che è il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, lui ci annuncerà ogni cosa. Gesù le disse, io sono colui che ti parla. In quel momento arrivarono i suoi discepoli, si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno però gli disse, che vuoi? O perché parli con lei? Gesù è lì pronto a dirle, il mio amore per me, per te è eterno, il mio amore per te è eterno. Hai avuto 5 mariti che rappresentano simbolicamente 5 templi eretti sul monte Gerizim dei Samaritani. Convivi con un altro uomo che rappresenta il Dio degli ebrei che i Samaritani avevano, però facevano due piedi con una scarpa e preferivano avere un impegno leggero piuttosto che un impegno serio con Dio. Io sono il settimo, la settima persona, il settimo uomo che incontri. Per 6 volte stai vivendo sofferenze, il tuo cuore non è pieno, non è riempito. Io sono qui pronto a riempire il serbatoio d'amore del tuo cuore. Io sono qui pronto a darti l'amore che nessun uomo è riuscito a darti pienamente. Vuoi perché è avvenuta la morte, vuoi perché sei stata ripudiata, vuoi perché hai avuto qualsiasi tipo di problema o litigio con lui. E adesso entriamo nelle nostre vite, non solo nei nostri matrimoni, nei nostri sentimenti o relazioni, a 360 gradi, le nostre amicizie deluse, i nostri problemi quotidiani con le persone intorno a noi, i nostri matrimoni che delle volte barcollano, sono difficili. Gesù si propone come il settimo. E qui al pozzo, adesso vedremo perché, si realizza quel passo di Osea 2 che dice io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassione, ti fidanzerò a me in fedeltà e tu conoscerai il Signore. Sapete perché? Il pozzo era il luogo del contratto matrimoniale degli ebrei. Quando gli ebrei si dovevano sposare facevano il patto al pozzo. Gesù non a caso era lì. Era lì a dire, finora c'è stato insuccesso. Il 6 parla del numero dell'uomo che è limitato. Io sono il settimo. Il 7 parla dell'amore perfetto. Io sono qui pronto a darti il mio amore perfetto. E la donna samaritana rappresenta tutta l'umanità che Gesù vuole portare a sé in matrimonio. E chiama ognuno di noi. E dice, io voglio essere il settimo. Lo sposo perfetto. Che fa un patto con te al pozzo. Nel tempo abbiamo avuto dei fortissimi matrimoni, qui ci vorrebbe un sottofondo romantico, Cristian, no scherzo. Isacco, tramite il servo di Abramo, incontrerà Rebecca al pozzo e si sposeranno. Giacobbe incontra Rachele al pozzo e poi costruisce un pozzo. Mosè incontrerà sua moglie al pozzo. Gesù ha incontrato ognuno di noi al pozzo per dire il mio amore è perfetto. Ora tu che sei single, fatti consigliare un pozzo da qualcuno. Scherzo. Il nostro pozzo ce l'abbiamo è Gesù. Ma io voglio dire questo e sento di dire questo. Se stai cercando la persona giusta che riempia i tuoi vuoti, stai sbagliando, perché solo Gesù ha riempito i tuoi vuoti e può riempire i tuoi vuoti ancora oggi al pozzo. Se cerchi o se vivi il matrimonio in relazione a tuo marito o tua moglie, o cerchi un marito o una moglie che possa riempire ciò che di brutto tu sei, perché ognuno di noi è qualcosa di brutto sicuramente, non lo troverai mai, non ti soddisferà mai. Non è il marito o la moglie a poter riempire i vuoti del nostro cuore. Non è il marito e la moglie a poter renderci felici. Cristo Gesù è l'unico che ci rende felici, che ha riempito il nostro vuoto e che continua a riempirlo. E tante volte, quando nei sentimenti noi siamo delusi, ricorriamo ad altri rifugi che non sono Gesù, perché il nostro secchio è screpolato. Ricorriamo a pensieri che non sono puri. Ricorriamo al gioco d'azzardo, ricorriamo alla pornografia, ricorriamo al fantasticare la persona ideale per la nostra vita. Tante screpolature, tanti buchi che ci portano sempre più lontani da Dio. Gesù è venuto per dire: io sono qui per riempire i vuoti del tuo cuore. Io sono qui e sono l'unico che può darti quell'amore che è perfetto. La donna lo comprende, dice un'ultima cosa. La mia religione dice che bisogna adorare sui monti della Samaria. La tua dice a Gerusalemme, mi dici dove dobbiamo adorare? Gesù dice: io non sono un Dio di religione, io sono un Dio di relazione. Dovunque io sono, tu ci sei. E dovunque tu ci sei, io sono con te, in spirito e verità. Questo ha detto Gesù. Dovunque tu sei, io ci sarò. Gesù ama relazionarsi in ogni momento con ognuno di noi. E quando la donna dice, ok, forse è meglio che venga il Messia a chiarirci tutto, Gesù dice, lo abbiamo letto nella versione nuova di Diodati, è l'unica che lo dice, io sono, io sono. Che non significa semplicemente, non vuole dire sono io il Messia. Io sono. Quando Mosè dice io devo andare a liberare il popolo dall'Egitto, chi mi manda? Cosa devo dire al faraone? Io sono. E Giovanni usa lo stesso termine. Io sono. Gesù è Dio. E si rivela pienamente nella vita di questa donna e si vuole rivelare pienamente nella nostra vita. Non abbiamo tempo, però lo diciamo solamente come finisce questo momento. La donna prende il secchio, anzi lo lascia e va nella sua città a dire c'è un uomo che ha cambiato e ha trasformato la mia vita. E molti samaritani credono in lui e poi dicono a Gesù non te ne andare, rimani con noi. Che miracolo, una sola persona. Gesù si è preso del tempo per relazionarci con noi. Il nostro secchio non serve più, non abbiamo più bisogno di elemosinare acqua. Adesso la nostra vita trasborda dell'acqua di vita eterna e noi andiamo e diciamo, non c'è bisogno di dire chissà che cosa. Io ero in un certo modo, Gesù ha parlato alla mia vita, io sono una persona nuova. E la samaritana, quando lascia il secchio, è una persona nuova. Qualcosa è cambiato nella sua vita. Il vecchio è passato. E la fonte di acqua viva è scaturita in vita eterna nella sua vita. Chiudiamo i nostri occhi. Io voglio parlare innanzitutto a chi è qui per le prime volte. Forse ti senti solo, abbandonato, deluso dai tuoi amici, dalle persone intorno a te, nella tua famiglia, e è un vuoto da colmare. Forse già hai conosciuto chi è Gesù, per oggi Gesù dice, io voglio che tu possa essere riempito pienamente della mia acqua. Io voglio che tu possa sperimentare chi sono io. Io voglio che tu possa comprendere il mio amore. Gesù è qui per darti un amore che non finisce mai, un amore che è sempre a tua disposizione. Se tu ti senti questa persona sola, con un vuoto, con il bisogno di riempire questo vuoto, e riconosci che Gesù può fare qualcosa di straordinario nella tua vita, alza la tua mano. Grazie. Voglio pregare anche per chi è venuto arido. Se c'è dell'aridità nel tuo cuore, oggi Dio vuole aggiustare la tua cisterna, vuole togliere tutte le screpolature che ci sono. E lo Spirito Santo vuole vivere pienamente in te. Lo Spirito Santo che è in te è gentile. E quando ognuno di noi inizia a fare di testa propria, lui è lì ad aspettarci, a dire: sono sempre qui con te. Quell'acqua non si è mai esaurita. Ma non ti fermare un bicchiere, vai oltre, trasborda, vai oltre. C'è qualcosa di grande per la tua vita. Se tu ti senti arido, arida, e hai bisogno di un tocco da parte di Gesù, alza la tua mano in questo momento. Rimaniamo con le mani alzate, tutti quelli che hanno alzato la mano. Adesso domenica scorsa, 3 domeniche fa, Dio ci ha parlato pienamente, e anche oggi, di quanto è importante essere pieni, ripieni di Spirito Santo. Tu che hai alzato la tua mano e che vuoi portare un cambiamento, guarda le mani alzate. Semplicemente vai ad abbracciare le persone che hanno le mani alzate. Se tu lo senti, se tu hai alzato la mano le domeniche scorse, muoviti, alzati e vai ad abbracciare le persone che in questo momento non hanno alzato. Se tu vuoi essere e hai deciso di essere quel bicchiere pieno di acqua, se tu hai deciso di essere quella persona che con la sua fede vuole stupire Dio, alzati in questo momento e vai a pregare per le persone che hanno alzato la mano. O se senti di pregare in particolare per qualcuno, fallo. Fallo in questo momento. Dai un abbraccio, basta quello, dai un abbraccio. Oggi Dio vuole fare sentire il suo abbraccio, che Gesù ti ama di un amore immenso. Signore Gesù, io ti ringrazio per quanti si sono sfidati nel voler portare cambiamento nella loro vita, per quanti hanno deciso di scegliere per il tuo amore, di quante persone, vivendo nell'aridità, hanno detto: io ho bisogno di quest'acqua. Io ti prego per vite abbondanti, io ti prego per ognuno di noi, che possa essere ripieno di Spirito Santo, di potenza, e di andare senza timore, senza vergogna, raccontando chi tu sei. Io voglio che ognuno di noi, e prego che ognuno di noi, come questa donna, possa sfidare ogni convenzione sociale, ogni giudizio, e dire: non mi importa più di quello che tu pensi di me, Gesù ha cambiato la mia vita. Io prego che la tua Chiesa possa essere immersa di Spirito Santo per portare cambiamento in ogni luogo, in ogni posto, dovunque ci porterà, ricordandoci che il tuo pozzo è sempre con noi, che la tua acqua non manca mai. Grazie, grazie Signore Gesù. Amen.